sogni sono folli, non è folle la veglia, non fosse che tu li sogni. Non è sogni, sono folli, non è folle la veglia, non fosse che tu li sogni. Passo, nei sogni vive ancora, che ci è morto da poco, e la veglia non arretra d'un passo, nei sogni vive ancora, che ci è morto da poco. Sono folli, folle la veglia. Oh,